Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera ci siamo domandati se esistono delle tecnologie o delle metodologie per riqualificare contemporaneamente un edificio sia dal punto di vista sismico che energetico. Infatti la vulnerabilità di molti edifici italiani è tale da rischiare di vanificare gli sforzi per renderli più efficienti, e questo senza bisogno neanche di arrivare ai sismi dell'entità di quelli che hanno colpito ultimamente l'Appennino e che pure sono nelle corde di una parte consistente, insomma, del territorio italiano. Infatti persino a Roma, dove il sisma è arrivato molto attutito, si sono registrati dei danneggiamenti che avrebbero reso chiaramente vano qualunque intervento di cappotto. D'altro canto, proprio le opere, diciamo, di posa di un cappotto e quelle di consolidamento sismico hanno dei punti in comune. Per esempio, servono ponteggi e le competenze della manodopera sono simili. Sfruttando, diciamo, queste sinergie si può immaginare un intervento che complessivamente riduca i costi. Ma esistono dei prodotti in grado, con una sola applicazione, con una sola procedura, diciamo così, di risolvere entrambi i problemi? Ebbene, la risposta a quanto pare è no. Però c'è chi ci sta lavorando, come Chiara Passoni, che è postdoc presso l'Università degli Studi di Bergamo, che insieme a quella di Brescia sta lavorando proprio su questi temi. Buonasera Passoni. Buonasera Meli. Allora, ci descriva un po' la vostra proposta. Quindi una tecnologia che potrebbe diventare domani una serie di prodotti, speriamo anzi, per intervenire contemporaneamente su tutti i capitoli, energetico, sismico, ma direi anche architettonico. Esatto, quello che noi stiamo studiando è una sorta di struttura a guscio, cioè un vero e proprio guscio che andremo a costruire all'esterno dell'edificio, che proprio grazie alla sua estensione permette di ridurre lo spessore dell'intervento e di diventare una struttura molto snella. Ad esempio noi parliamo di gusci o diagrid, ma si può pensare a una vera e propria scatola costruita all'esterno dell'edificio. Si tratta quindi di una struttura che può essere posta a una certa distanza dall'edificio, quindi permette di includere nuovi spazi abitativi, balconi, stanze, ballatoi, certo, esatto, serre bioclimatiche. Oppure al limite, al tendere, si può anche decidere di andare in aderenza delle pareti dell'edificio, andando a costituire un vero e proprio, possiamo dire, virgolettando, cappotto strutturale, quindi una serie di pannelli di un certo spessore che includano all'interno sia un recupero di tipo energetico che strutturale e che aiutino anche ad abbellire l'edificio, diciamo, con una nuova finitura anche da un punto di vista architettonico in questo caso. Ecco, come si arriverebbe alla produzione di questi pannelli? Con che procedure? Non so se ci può dire qualcosa di più. Materiali possibili? Allora, quello che noi stiamo studiando appunto sono sistemi che puntino molto sulla prefabbricazione, quindi okay, sono comunque strutture che devono essere progettate ad hoc, perché così come ben sapete per l'energia, maggiormente per la riqualificazione sismica, i progetti devono essere fatti in funzione del tipo di edificio, sono tanti fattori che entrano in gioco. E d'altronde comunque gli edifici sono quasi tutti uno diverso dall'altro, quindi prego. Però l'idea è quello di rendere il più prefabbricabile possibile in modo da perseguire due scopi principali: la facilità della posa in cantiere, quindi la riduzione degli scarti, la riduzione delle tempistiche del cantiere, eccetera, e la sostenibilità dell'intervento. Quindi quello che noi vogliamo andare a integrare sono materiali sostenibili e riciclabili, soluzioni a secco, sistemi che siano riparabili dopo il sisma, quindi ad esempio andare a concentrare il danno all'interno di elementi che siano poi facilmente sostituibili. Ecco, questa è una cosa molto interessante che mi sembra di aver capito del vostro progetto, e cioè questi, chiamiamoli pannelli prefabbricati che vengono attaccati all'esterno, alcuni di questi possono essere degli elementi sacrificabili, che è una cosa tipica che si fa negli interventi sismici, è così? Che hanno il compito di deformarsi assorbendo energia e poi alla fine del sisma si tolgono, si sostituiscono. È così? Sono dei veri e propri fusibili in cui si concentra tutto il danno e che poi siano facilmente sostituibili, possono essere ad esempio concentrati nelle connessioni all'edificio, alla base, eccetera. Comunque degli elementi che dopo il sisma non è necessario andare a buttare tutto quello che abbiamo fatto e rifare tutto ex novo, ma ad andare, andare solo questi elementi sacrificali vengono sostituiti. Senta, ma che tipo di soggetti, penso industriali per esempio, potrebbero naturalmente essere portati verso la realizzazione di oggetti di questo genere? Qui è chiaro che stiamo parlando anche di qualcosa che manca, ma quindi anche di una grande opportunità, se vogliamo, soprattutto in un paese come l'Italia. Ad esempio possono essere i produttori di pannelli energetici, possono essere i produttori di connessioni o collegamenti in generale, o possono essere anche aziende che creano elementi strutturali come può essere in legno, in acciaio, Sì, comunque ce ne sono, insomma, sì, volendo, che potrebbero... No. Un vero e proprio sistema, un nuovo sistema costruttivo che quindi deve essere interessato da più punti di vista da diverse aziende, diciamo. Va bene, grazie mille Chiara Passoni. Grazie a lei, buonasera.